Piebe è una situazione al momento abbastanza tranquilla. Le forze dell'esercito israeliano hanno circondato la città, che è chiusa ormai da 3 giorni, ma si riesce a entrare in modo più o meno legale. Diciamo che c'è sempre un modo per arrivare all'interno di Hebron, soprattutto per gli internazionali. Ci sono molti più controlli e soprattutto per andare nella città vecchia, questo può causare dei problemi per i palestinesi che vivono qui. Non ci sono grandissimi cambiamenti nello stato delle cose, cioè le notizie che arrivano dall'Italia sono quasi più preoccupanti di quanto poi accada veramente qui, anche se il governo di Sharon continua a minacciare una vendetta e penso che qualcosa presto succederà, stanno preparando penso delle retate o qualcosa per catturare alcuni wanted della città. Per quanto riguarda lo sciopero della fame, posso dirvi che si è concluso ieri ufficialmente in tutte quante le prigioni della Palestina e nelle prigioni israeliane. E l'unico problema è che non si sa ancora quali domande siano effettivamente state accolte dall'autorità israeliana. Prima di tutto perché le trattative sono avvenute privatamente in ogni singolo stabilimento detentivo e in secondo luogo poiché le autorità israeliane negano di aver accettato qualsiasi richiesta dei prigionieri, mentre l'autorità palestinese sostiene che alcune delle domande, perlomeno quelle basilari, sono state accolte. E questo per il momento è quanto. Domani ci saranno delle riunioni all'interno delle varie città in Palestina per parlare appunto dell'accaduto. E le mobilitazioni per il momento sono finite, i prigionieri hanno ricominciato ad assumere liquidi e al più presto ricominceranno anche a mangiare.